Simonide salvato dagli dèi, da Favole di Jean de La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, luglio 2007, Roma. Ma l'erba ha detto, ed io gli do ragione, che la lode eccessiva mai non è per tre classi speciali di persone, gli dèi, le donne e i re. La lode il cor solletica alle belle, che si mostrano grate o tardi o presto, in quanto ai numi si racconta questo. Simonide doveva un grande elogio scriver d'un atleta, e non sapeva proprio cosa dire. L'atleta, oltre la forza, non aveva gran meriti, ed i suoi, gente alla buona, vivea anzi sconosciuti alla Carlona, da far disperare anche un poeta. Or che pensa Simonide? Accozzate quattro parole intorno all'argomento, girò la vela al vento e sparse d'eloquenze i più bei fiori su Castore e Polluce, che direi degli atleti due santi protettori. Lodò le imprese, le battaglie e l'arti, onde brillano i due santi gemelli, in tal copia di storie e fatterelli, che il loro panegirico occupò del discorso almeno tre quarti. L'atleta, udendo questo, assai poco contento, pagò del panegirico una parte e disse: «Va da Castore e Polluce, che del talento pagheranno il resto. Ma perché non ti sembri villania, vieni oggi a desinare a casa mia, che un boccon mangeremo allegramente in lieta compagnia». Non volendo mostrarsi scompiacente, e per non perder forse anche quel poco, Simonide accettò. La brava gente fece onore al cuoco, si bevve e si mangiò, lieto ciascun del suo migliore umore. A un tratto entra correndo un servitore a dirgli che due giovani l'aspettano di fuori. Esce Simonide e resta gli altri a tavola per non perdere un tempo così bello. Eran Polluce e Castore in persona, che dell'elogio in prima il ringraziarono. Poi, vattene, gli dissero, da questa casa che di fesso suona. Ed ecco a un tratto una trave si schianta, cade il solaio ed anfore e bicchieri e piatti rompe e va sopra i coppieri. Inutil dir che quella gente ghiotta uscì pesta e storpiata, e per far la vendetta più salata, per conto del poeta, ebbe l'atleta anche una gamba rotta. La fama andò a suonar la sua trombetta per dritto e per traverso, e a un uomo tanto caro a quell'assù si pagarono gli elogi, il doppio che agli altri ed anche più. Ogni Bertoldo non guardava i soldi pur d'avere un elogio da Simonide, in lode degli antichi suoi Bertoldi. Tornando a bomba, io dico che l'incenso ai numi e ai pari lor non è mai troppo, e l'arte fa benissimo, mi pare, se dà lavor ritrae qualche compenso. Si stima l'arte che si fa pagare. Il favor che il potente all'arte dona, a gloria sua ritorna. Già fu l'Olimpo amico all'Elicona. Fine della favola. Simonide salvato dagli dèi. Questa è una registrazione di dominio pubblico.